Storie italiane. C'era una volta un regno governato da un principe di nome Errol. E non era un principe come gli altri. Oh no, era il principe più perfetto che ci sia. Spiritoso, intelligente, divertente, estremamente bello. Sì, tutto questo. Ma, come sappiamo, nessuno è perfetto. E così il nostro principe perfetto aveva un segreto. Oh mia meravigliosa faccia! Quanto mi sei mancata! Oh no! Un pallino! Oh no! È sullo specchio! Sì, la più grande debolezza del principe era la sua faccia. L'amava incredibilmente e considerava l'aspetto la cosa più importante. Così evitava le persone che non pensava fossero belle. Questa stanza è così magnifica. Forse perché il mio riflesso è su tutti i muri. Chi è? Buonasera, maestà. Sono venuta per dirti che tua zia Ayla verrà al ballo domani. Oh, sì! Il mio ballo reale è per celebrare il mio zia Ayla. Oh, perché verrà? Vostra maestà? Sei qui? Oh, sì! Prepara tutto per lei! Con piacere! Oh, abbiamo preparato il tuo abito! Grazie! Beh, almeno io sarò bello domani. Zia Ayla è una donna così cattiva. Domani vedrà che bravo principe sono. La sera successiva i reali di tutto il mondo andarono al ballo del principe e ballarono e si divertirono. Nella sua stanza il principe si stava preparando. Indossava il suo completo e sembrava ancora più bello che mai. Oh mio Dio, sono fantastico! Questo abito rende il mio viso ancora più bello! Cos'è successo al principe? Forse si sente male. Spero che stia bene. Ma il principe era lontano dall'essere malato. Era in piedi nella sua stanza e stava ammirando il suo riflesso negli specchi. Dovremmo andare a prenderlo. Dov'è mio nipote? Non vedo sua altezza reale da nessuna parte. Oh, signora Ayla, stavamo per andare a prendere il principe nella sua stanza. Oh, non preoccuparti, lascialo fare a me. Mi piacerebbe rivedere il mio caro nipote. Zia Ayla non era in realtà una persona cattiva, ma sapeva tutto del vizio di Errol e non era contenta della sua vanità. E l'ho già detto? Era anche una strega. Oh, ho i capelli più belli di tutto... Errol! Di nuovo a guardare lo specchio! Zia Ayla, cosa stai facendo qui? Beh, non sei venuta ad accoglierci, il che è molto irrispettoso, dal momento che è il tuo compleanno. Lo so. Stavo solo facendo qualcosa. Lei guardò lo specchio che stava tenendo Errol. Quel maledetto specchio. Va bene, lascia che ti dia il tuo regalo di compleanno, poiché ami così tanto gli specchi e la bellezza. Ecco. Fece una magia a Errol e quando aprì gli occhi si ritrovò intrappolato nello specchio. Cosa? Dove sono? No, lasciatemi uscire! No, non fino a quando la smetterai di ammirarti così tanto! Che sciocca! Chiamerò le mie guardie per arrestarti! Ah, giusto! Ecco, ora non sarai in grado di parlare di nulla riguardante l'essere un principe o della tua maledizione! Neanche il mio nome potrai dire. Sarai solo un uomo nello specchio. Perché tu? E anche... In modo che al regno non manchi il suo bellissimo principe. Non te la caverai così, zia! Ai, ai, ai, ai, ai! Io rido, tu ridi, ridiamo tutti! Ciao, ciao, dolce principe! E con ciò, il povero Errol si ritrovò fuori dal suo palazzo, nella casa di una povera famiglia. Lì, una donna lo prese. Oh, chi ha portato questo specchio qui? Che meraviglia! Oh, grazie al cielo! Qualcuno che può salvarmi! Ciao! Ciao! Riesci a sentirmi? Ma la donna poteva solo vedere il proprio riflesso. Non riusciva a vedere il povero principe, bloccato nello specchio che urlava. La donna aveva un bambino che lavorava sodo per portare soldi a casa. Mamma, oggi ho guadagnato dei soldi! Quando andrai al mercato a comprare cibo per noi? Tra un po', tesoro. Sono davvero carina. Gli uccelli dovrebbero cantare canzoni su di me. Donna sciocca, tuo figlio ha fame e non ti stai nemmeno prendendo cura di lui. Ma non riusciva a sentirlo e il principe vide il povero ragazzino tristemente uscire di casa con il cestino della spesa. Questo andò avanti per giorni, fino a quando un giorno il ragazzino si arrabbiò. A mia madre piaci troppo! Devo sbarazzarmi di te, altrimenti non lavorerà mai! Prese lo specchio, quando sua madre non c'era, e lo gettò fuori dalla finestra. Lì, un terribile ladro stava facendo un giro. Vide lo specchio e lo raccolse. Oh, e adesso? Uno specchio così carino per una persona come me? Io, il più grande ladro del mondo! Un ladro? Perché non posso cadere nelle mani di una bellissima principessa? Il ladro portò lo specchio ovunque andasse e così Errol vide tutte le cose sbagliate che faceva durante il giorno. Chi è il più grande ladro? Io, ecco chi è! Non sei eccezionale, sei un ladro molto cattivo. Ma un giorno, mentre il ladro correva, non si accorse di aver lasciato cadere lo specchio. Arrivò un bambino e lo raccolse. Oh, uno specchio così adorabile, è un po' polveroso. Lo porterò a casa e lo pulirò. Quindi il ragazzino tornò a casa e lì pulì lo specchio. Oh, posso vedere il mio... Aspetta, questa non è la mia faccia. Ehi, bimbo, riesci a sentirmi? Oh, che cosa? Oh, mi puoi sentire? Ma come? Chi sei? Sei uno specchio magico? No, sono un sì, sono uno specchio magico. Wow! Puoi darmi un gelato? No. Allora, una nuova maglietta? No. E quindi, cosa hai di magico? Parlo, non è vero? Il ragazzo non ne fu molto contento, ma sorrise educatamente allo specchio, principe. Come puoi sorridere con così tanta sporcizia e macchie sul tuo viso? Oh, questa? Mi sono sporcato aiutando un anziano a spazzare il tetto. È solo sporco e sono felice perché ho aiutato qualcuno. Errol fu colpito dalla risposta del bambino. Perché, sebbene fosse un principe gentile, riteneva che il suo aspetto fosse la cosa più importante. Ora sei mio amico, quindi ti porterò sempre con me. Oh, come sono fortunato! Nei giorni successivi il principe notò quanto fosse gentile e dolce il ragazzo. Nonna, nonna! Ecco, questo pane è per te. Per favore, mangiatelo tutto. Oh, grazie mille, ragazzo mio! Perché l'hai fatto? Non hai nemmeno abbastanza cibo per te stesso e lo hai dato a quella donna dall'aspetto strano? Voglio dire, può facilmente lavorare da sola. Non chiamarla strana. Il suo cuore è bellissimo e questo è abbastanza. Compra un sacco di cibo con tutti i suoi soldi e lo dà a tutti gli altri poveri della città. Alla fine, rimane sempre senza nulla. Il principe rimase in silenzio dopo aver sentito questo. Guardava sempre le persone dall'esterno, ma ora aveva iniziato a vedere la loro bellezza interiore a causa del tempo trascorso con il ragazzo. Quella notte, mentre il bambino dormiva profondamente, il principe Errol si sentì molto male per come si era comportato. «Mi vergogno così tanto! Pensavo solo alla bellezza assoluta e evitavo le persone che erroneamente pensavano fossero belle. Tutti sono belli, non importa come appaiono!» In quel momento, il principe uscì dallo specchio, si era reso conto del suo errore ed ora era libero dalle maledizioni della zia. «Io sono libero! Ora posso andare a casa!» Sorrise vedendo il bambino che dormiva e se ne andò. Raggiunse presto il suo palazzo. «Oh, Vostra Altezza, ma ti ho appena visto andare a letto!» «Cosa? No, ho deciso di fare una passeggiata fuori!» «Anche il rossetto sta bene sul viso di questo ragazzo!» Zia Ayla, sono tornato!» «Oh, mio Dio! Così presto? Pensavo che avrei avuto un po' più di tempo per governare questo regno!» «Oh no, non lo farai! Ho imparato bene la lezione, quindi... grazie! Ora, potresti cortesemente tornare in te stessa? Non mi piace proprio vedermi indossare il rossetto!» «Sorprendente sentirti dire questo!» Tornò in se stessa e il principe fece un sospiro di sollievo. «C'è solo una cosa che non ho capito. Come ha fatto il ragazzo a sentirmi?» «Forse perché le altre due persone non potevano vedere oltre se stesse. Il ragazzino, tuttavia, si preoccupa così tanto degli altri che ha sentito la tua voce facilmente. Bene, arrivederci!» «Arrivederci, zia Ayla! Sì, questo ha senso. Aspetta, come faceva a saperlo?» Il principe iniziò subito a governare il suo regno in modo molto migliore. Ringraziò profumatamente il ragazzo, che fu molto sorpreso. Il principe si era liberato dalla sua abitudine e ora, quando si guardava allo specchio, sorrideva di cuore.